Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo nella seconda ora del programma dell'intervento di Mario Draghi al Parlamento europeo. Ha definito l'adozione della supervisione bancaria unica, quella che è stata decisa la settimana scorsa e che diventerà operativa però solo dal 2014, un punto di svolta nella soluzione delle nostre sfide attuali, e poi ha invitato i vari governi dell'area euro a perseverare nelle riforme. Ne parleremo, dicevo, nella seconda ora del programma, quando parleremo anche di un dato buono, anzi direi ottimo visto il periodo, e mi riferisco al nostro export. Più volte abbiamo ricordato in questi mesi, in questo anno e mezzo, che l'unica cosa che sta tirando in questo momento in Italia dal punto di vista dell'economia è l'export, quindi le imprese medie, anche grandi ci mancherebbe, ma anche le medie, e i fornitori di queste imprese, che possono essere anche piccole, che sono agganciate sulla filiera comunque delle esportazioni nei mercati che tirano, e quindi non l'Europa. Ancora, dicevo, sull'export siamo a un dato a ottobre in cui c'è stato un più 12% rispetto all'anno scorso, ma la cosa più interessante è che a questo punto, nei primi 10 mesi del 2012, il nostro export ha fatto più 4,5%, ed è soprattutto un aumento dovuto, ripeto, all'export fuori dall'Europa, che ha fatto più 10%. In Europa le nostre esportazioni sono rimaste ferme, più 0,2% nei primi 10 mesi dell'anno. Ma la cosa interessante è che l'attivo di bilancio, quindi la differenza tra quanto importiamo e quanto esportiamo, è a vantaggio delle esportazioni per 6 miliardi e mezzo di euro, la differenza, il saldo, ed è il dato più alto nello stesso periodo, cioè da gennaio a ottobre, dal 2002, quindi da 10 anni. L'Italia nei primi 10 mesi non registrava un attivo di 6 miliardi e mezzo nella differenza tra quanto esportiamo e quanto invece importiamo. Ripeto, con i tempi che corrono mi sembra un dato ottimo, e lì ci fermiamo però con oggi, perché poi partiremo in realtà con alcune vicende. Mi riferisco in primo luogo all'IMU, l'IMU che oggi era l'ultimo giorno per pagarla, IMU introdotta, lo ricordo per correttezza, dal governo Berlusconi il 14 marzo 2011, è il decreto legislativo, però perché l'IMU fu introdotta allora come prima tranche. Il gettito con il pagamento previsto entro oggi dovrebbe essere di circa 15 miliardi, sommati ai 9 pagati in giugno, porterebbero l'incasso complessivo a 23-24 miliardi di euro, il che vuol dire un paio di miliardi in più, almeno anche 3, rispetto alle stime iniziali del governo. Nel decreto Salva Italia, quello di inizio 2012, ricorderete che si stimava un incasso da parte dell'IMU di 21 miliardi. Chi non salda l'IMU oggi potrà pagare la tassa con una mini sanzione, ravvedimento operoso, 0,2% per ogni giorno che passa per i primi 14 giorni, e poi la sanzione del 3% per ogni giorno di ritardo dal 15esimo al 30esimo giorno. E di questo parleremo anche perché nel frattempo sono arrivati i dati sull'evasione fiscale, il bilancio della Guardia di Finanza, oggi lo trovate su molti giornali. Uno scontrino su 3 resta nascosto al fisco. Il problema è che è meno di 1 su 3 al nord e al centro, siamo quasi a 1 su 2 al sud. Il fenomeno è in crescita, perché nel 2011 erano il 24,8% gli scontrini che non risultavano emessi, adesso siamo al 33%. Hanno chiesto infatti le Fiamme Gialle la sospensione di quasi 5.000 esercizi per ripetute violazioni dell'obbligo di emissione di ricevute e scontrini. Ma devo dire che poi ci sono altri elementi, altri problemi che riguardano quanto lo Stato riesce a incassare, poca roba, meno di 1 miliardo, 900 milioni. Di questo parleremo in apertura. Poi la vicenda Monte dei Paschi, il titolo va molto bene, oggi più 6,33%. L'Unione Europea ha sostanzialmente, la Commissione Europea ha dato il via libera temporaneo alla ricapitalizzazione del Monte dei Paschi, cioè 3,9 miliardi. In questo modo il coefficiente di patrimonializzazione, cioè il patrimonio in mano alla banca, salirà al 9% rispetto agli attivi e quindi la banca sarà in linea con una raccomandazione della European Banking Authority. Comunque l'approvazione finale è subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione entro i 6 mesi successivi da oggi. E Monte dei Paschi è di fatto la prima banca italiana che viene salvata, si può dire, perlomeno aiutata, poi non so se salvata complessivamente, con aiuti sostanzialmente di Stato. Ancora, nella seconda ora parleremo di export di Draghi e come sempre anche di borse. Monte dei Paschi, dicevo, più 6,30%, bene anche Fiat oggi, più 3%, la Popolare Emilia Romagna più 3, Banco Popolare più 2,70, A2A più 2,5, Media 7 più 2,2, Mediobanca più 2%, Pop Milano più 1,80, come Buzzi Unicem, l'1,70 lo guadagna Enel Green Power, l'1,60 UbiBanca, l'1,50 Diasorin. Chi perde? Telecom Italia, meno 1,13, Parmalat, meno 0,60 come Azimut e Saipem. Euro a quota 1,31,68. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666 e chiaramente c'è anche Facebook. Allora, per quello che riguarda come sempre i mercati internazionali, oro e petrolio, oro in ribasso a $1,689 l'oncia, petrolio in America fermo a $86,9 il barile. Di Draghi abbiamo già detto e ne parleremo più avanti. C'è sul fronte europeo però, ci sono alcuni dati che riguardano oggi la Germania, nel senso che la Germania sta frenando come economia, lo rileva anche la banca centrale tedesca, la Bundesbank, che ha detto subirà l'economia tedesca una marcata contrazione negli ultimi 3 mesi dell'anno e quindi il 2013 non crescerà più dell'1,5%, ma appena dello 0,4%. E per la prima volta dall'inizio dell'anno calano gli occupati nell'industria tedesca. Ottobre il numero di occupati del settore è calato di 7.700 persone. Poca roba, meno 0,1%, ma è il primo calo in questo anno. Ciò nonostante in Germania l'industria continua a occupare 5.300.000 addetti, che è uno dei livelli più alti degli ultimi 4 anni. Però la frenata c'è anche in Germania ed è forse il motivo per cui ultimamente, negli ultimi mesi, anche Angela Merkel ha cambiato atteggiamento nei confronti dell'aiuto ai paesi europei. Angela Merkel oggi è tornata invece su quanto era avvenuto, che noi avevamo personalmente molto criticato la settimana scorsa, non tanto al PPE, ma insomma avere un Mario Monti che adesso non si capisce, non farà la sua lista, farà un programma da eventualmente sottoporre a chi vorrà, ma ci va dato un po' così il senso di colonia o il senso di intromissione, vedere Angela Merkel chiedere a Mario Monti candidati, il Fondo Monetario idem, cioè sembrava una pressione quasi a livello di ingerenza. Devo dire che ci abbiamo visto giusto, visto che oggi Angela Merkel dice: io prendo le mie decisioni da sola in Germania, rispetto che nei paesi dell'Europa si prendono autonomamente le decisioni, quindi rispetto l'autonomia dei paesi sulle candidature. Troppa grazia, Antonio. E con Monti e con Rai Hoy ci siamo sentiti, ci diamo consigli amichevoli quando vengono richiesti. In effetti a me era sembrato un po' forte tutto questo invito a Monti a candidarsi, manco, diciamo, un conto è, lo ripeto prima di iniziare le polemiche, un conto è dire come abbiamo fatto anche noi quando ci sono due candidati in America o in Francia, tifo per uno, tifo per l'altro. In questo caso la cosa strana è che Monti non è e non era candidato, quindi c'era una pressione a che si candidasse, mi sembrava un po' così strana, no? Lo spread come va nel frattempo? Cala sotto i 320 punti, il BTP a 10 anni rende 4,55%, quindi anche questa è obiettivamente una buona notizia. Meno buona la notizia che arriva dall'Istat: cala l'offerta di posti di lavoro nelle imprese, meno 0,5%, ma nel frattempo, pur calando, sono ancora vacanti 38.000 posti di lavoro nelle imprese delle industrie e dei servizi. E poi parliamo adesso della alta velocità da un lato e della Alitalia dall'altro. Perché? Perché ci sono due dichiarazioni molto, molto diverse. Una arriva da Giuseppe Sciarrone, che è l'amministratore delegato di NTV Italia, no? Italo. Ha detto che in un anno di recessione il mercato ferroviario ad alta velocità è cresciuto del 10-15%, con 4 milioni di passeggeri in più, e i prezzi sono diminuiti grazie alla concorrenza tra NTV, sostiene Sciarrone, e Ferrovie dello Stato di circa il 30%. E i treni sono così riusciti per la prima volta dal dopoguerra a sottrarre traffico al mezzo privato. Ammette che il treno fa concorrenza, ne fa tanta, anche l'amministratore delegato di Alitalia, Andrea Ragnetti, che ha detto: la battaglia col treno non è persa, ma diventa sempre più difficile. Con l'incremento della velocità del treno sotto le 2,5 ore, la concorrenza diventa quasi insostenibile. Ancora siamo in grado di gestirla, ma fra 4-5 anni, quando il Milano-Roma durerà 2,5 ore, la situazione sarà molto peggiore. Questo a margine dell'ultimo volo dell'MD-80 della compagnia. Meno male, perché l'MD-80, come dice il nome, volavano dagli anni 80. È particolarmente scomodi come aerei, ma questo chi se ne frega. Andiamo avanti. Sempre Ragnetti, amministratore delegato dell'Alitalia, ha confermato gli obiettivi di un utile operativo nel 2013 e un utile netto nel 2014. Saranno anni difficili, ma confermiamo gli obiettivi. E dicevo, la MD-80 dopo 28 anni esce dalla storia dell'Alitalia, e c'era oggi un volo celebrativo arrivato fino ai cieli di Trieste, accompagnato poi da una pattuglia delle Frecce Tricolori. Prima di arrivare adesso al pagamento dell'IMU e lotta all'evasione fiscale, abbiamo purtroppo la nostra ormai quasi consueta rubrica su come vengono utilizzati i soldi pubblici, pubblici, perché di quello parliamo, e partiremo oggi da una vicenda che, insomma, sta creando molto scalpore. Mi riferisco alle Ferrovie Nord Milano, Trenord si chiama adesso, poi andiamo in Lombardia, poi anche in Molise, devo dire che ce n'è per tutti. A passare puttane che più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, partiamo dalle Ferrovie Trenord. Perché? Perché avrete letto che per un'altra vicenda relativa a Urban Screen, al fallimento di una società che era una startup di spazi pubblicitari all'aperto, agli arresti domiciliari l'ex amministratore delegato di Trenord si è dimesso, infatti, Giuseppe Biesuz. Ciò nonostante, non ha più deleghe mantiene un mega stipendio da 549.000 euro, e tra l'altro è uno stipendio doppio rispetto al tetto imposto dal governo ai manager pubblici. Nel 2011 infatti il compenso Bisuzzo è composto da varie voci: 349.000 euro, di cui 200.000 come compensi fissi più altri 50.000 come bonus e incentivi, e altri 200.000 euro per compenso anno per la carica di AD Trenordi. Non capisco, mi sembra che siano doppi compensi. Comunque il totale fa 549.000 euro, che non mi sembra pochissimo, mi sembra anche un po' tanto, però tu dici no, hai 549.000 euro, è un servizio efficiente, sei un manager che ora come funzionano le Trenord basta chiederlo a un pendolare, lasciamo stare il casino che hanno combinato con un sistema operativo informatico che funziona in tutti gli altri paesi ma da noi non ha funzionato, e lasciamo stare lo sciopero di oggi, ma non mi sembra che insomma, mezzo milione, più di mezzo milione di euro all'anno di stipendio siano congrui, ma non faccio questo lavoro. Però è interessante la motivazione. Questi 549.000 euro vengono definiti in modo tale da assicurare una struttura retributiva complessiva in grado di riconoscere il valore professionale dei soggetti coinvolti. Nel frattempo Bisuzzo è finito ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta per il fallimento di Urban Screen, appunto questa società. Il manager avrebbe distratto e speso per scopi personali 685.000 euro e non bastano mai. Come li ha spesi? 25.000 euro per auto di grossa cilindrata, un viaggio da 5.000 euro a New York. Oh, queste cose uno le può fare con i suoi soldi, ci mancherebbe. Il problema è che se tu distrai, cioè prendi i soldi della società per usarli per fini tuoi, non si può fare, no? Tutto qua. 5.000 euro a New York con la moglie, ancora la moglie, la guardia di finanza ha ricostruito che lui ha versato con fatture false senza giustificazione 108.000 euro, ma il cuore non si comanda. La cassa di Urban Screen avrebbe anche finanziato con 4.500 euro cene elettorali di AN, di Alleanza Nazionale, nel 2007, e con 18.000 euro l'ex assessore comunale all'arredo urbano Maurizio Cadeo, chissà perché poi. L'indagine ha anche individuato tendaggi per l'abitazione dei coniugi Bisuzzo fatturati a Urban Screen, anche se non hanno nemmeno saldato i conti, tant'è che la società che gli ha fornito i tendaggi, cioè le tende all'abitazione, ha dovuto rivolgersi a una società di recupero crediti, perché evidentemente nonostante i 550.000 euro di stipendio, nonostante i 685.000 euro di distrazioni secondo la guardia di finanza, mancavano i soldi per le tende. Potevate chiedere ai pendolari. Però detto ciò, Bisuzzo, siccome lei insomma, è stata anche nostra ospite, lo scorso 19 settembre abbiamo fatto un'intervista perché Trenord aveva fatto un nuovo accordo sindacale sulla produttività, vabbò, e io vi vorrei far ascoltare senza commenti che cosa ci disse quando gli facciamo notare che i prezzi dei biglietti fossero aumentati del 20% e tra i più cari, cioè il collegamento per Malpensa sono 11 euro, e che venivano segnalate parecchie disfunzioni sulla tratta Mantova Cremona Milano, lo sciopero del biglietto, hanno smesso di pagare il biglietto perché erano stufi dei ritardi i pendolari, o sulla tratta Milano Lecco Sondrio con i 5 treni dell'ora di punta passati da 4.400 posti a 3.600 posti. Questa è la risposta di Bisuzzo. Sulla questione delle tariffe non lo dico io, ma c'è un benchmark internazionale che è ben preciso: noi incassiamo meno della metà di quello che incassano gli altri paesi europei. Noi incassiamo circa 0,11 centesimi per passeggero chilometro, in Francia e in Germania sono almeno 22-23 centesimi per passeggero chilometro. Il collegamento con Malpensa è il meno caro d'Europa, il rapporto tra distanza e prezzo è il più conveniente d'Europa, 11 euro per fare 50 chilometri, lei che gira il mondo sa perfettamente quanto costa l'Itro Express, tra le altre cose più veloce anche di tutti, come dimostrato dall'ultima ricerca fatta da SEA e Ambrosetti. Per quanto riguarda tutto il resto, noi abbiamo un ritardo per il ferroviario italiano di 30 anni. Stiamo recuperando, correndo, i risultati della customer satisfaction in Lombardia continuano a crescere e noi abbiamo lanciato un investimento proprio in autofinanziamento, perché Trenord è una società che remunera il capitale investito ed è in grado di autofinanziarsi sugli investimenti. Abbiamo lanciato un piano di investimenti da qui al 2014 di 536 milioni di euro. Alcuni già sono ordini, già che sono andati al settore ferroviario, come ad esempio 10 treni alla Alstom la settimana scorsa, e Regione Lombardia negli ultimi 10 anni ha investito 1.200.000.000 sui treni per quindi lei, per concludere ci sta dicendo che il servizio migliorerà? Il servizio sta migliorando in maniera sensibile. Quando lei ha riferito di alcune linee non c'è alcun dubbio che su quelle linee dobbiamo fare ancora un lavoro molto allora buono. Oh Gesù, ma migliora di che si è bloccata tutta la Lombardia con le treni per colpa del computer, ho capito, ma non si capisce perché non funzioni solo in Lombardia sto computer. Dopodiché mi sembra che adesso lei abbia, e lo dico con massimo rispetto, altri casi di cui occuparsi. Questo tango della Maiella invece ci porta lungo la penisola, ma mica tanto, restiamo ancora in Lombardia perché stanno uscendo i dettagli dell'inchiesta della magistratura sui 40 consiglieri della maggioranza, PDL e Lega. E beh, insomma, qua c'è di tutto. Allora, Gianluca Rinaldin, il compagno Rinaldin, perché lavora anche il 1° maggio, e infatti va a cena lui e due ospiti e si fanno pagare il conto, cioè paga lui il conto, neanche tantissimo, oddio, 180 euro, però insomma la cosa interessante è che il 1° maggio, in un ristorante giapponese. Ma ancora più interessante è che in un infuocato inizio d'agosto, in cui la regione praticamente era chiusa, il consigliere del PDL Alessandro Colucci va al ristorante, ordina piatti e vini non solo per 6, giorno 1, 2, 3 e pure 4 agosto, chiaramente tutto a spese della regione. Colucci comunque è uno che vuole far ripartire i consumi interni, vuole che la domanda interna riparta. E perché? Perché il 25 gennaio ha sborsato 2.256 euro per comprare, sempre con i soldi della regione, una card di memoria aggiuntiva più videocamera HD Samsung più software gestionale più materiale d'uso e di trasporto. Buh. Tutta roba che serve per la politica. È noto, insomma, che la videocamera e il software gestionale sono fondamentali per un consigliere regionale. Giuseppe Angelo Giammario, PDL, nel frattempo ha portato nello stesso periodo 315 corse di taxi, sempre corse non specificate, ci mancherebbe. Antonella Angela Maria Sabina Maiolo risulta residente a Milano. Adesso qui non è un problema di soldi, ma io vorrei capire un po' come, perché la Minetti, ne abbiamo già parlato venerdì, abbia fatto caricare alla regione le spese di 16 euro per il libro Mignotocrazia, al di là, diciamo, dell'aggiornamento professionale. Vorrei capire perché chi abita risulta residente a Milano ha fatto caricare alla regione 30 euro per l'Atlante topografico città di Milano. Voglio dire, magari uno ne aveva bisogno, ma pagatelo, no? Ma pagatelo. Giulio Boscagli del PDL si fa spesare la ricarica del cellulare di 250 euro. Rinaldin, Gianluca, di nuovo, dall'11 al 16 maggio del 2009 porta a casa un Apple MacBook da 1000 euro e un iPad 2 Wi-Fi da 870 euro, sempre coi soldi dei contribuenti, ci mancherebbe. Eccolo là, l'ascoltatore che scrive: Barisoni, certo che lei ha demagogia, non la batte nessuno. Complimenti, mi dica che lavoro fa, così è più chiaro. Mi dica che lavoro fa, dai. No, io dico complimenti, Rinaldino, perché tra videocamere, iPad, MacBook, no. Andiamo avanti. Leghista Massimiliano Rossatti ha caricato sul bilancio della Regione Lombardia gite in macelleria e CD musicali di Bon Jovi, spero non in contemporanea. Carlo Saffiotti del PDL, pazzo di francobolli, ne acquista, sempre a spese carico della Regione, per 250 euro. Giuseppe Angelo Giammario, il mese di giugno, ha un attacco di fame tale per cui va al bar nel 2008 e spende in un giorno 45 euro di panini. Il 19, mangiato. Il giorno dopo spende 37 euro di panini. Ora, un panino costa mediamente 5-6 euro, 7 panini si è mangiato. E il 23 fino al bis del 24 giugno con 46 e 49 euro di panini. Ma è una cosa. Ma che è Poldo, quello di Braccio di Ferro? Briciole rispetto alle cene, perché una volta Gianmario pagò 1.125 euro per sfamare 44 persone. Anche questa attività politica. Infine un applauso anche al leghista Angelo Ciocca, che ha comprato 2000 calendarietti alla cifra di 1669 euro, poi però ne ha spesi altri 3533 per e 28 centesimi per la spedizione. Direi che quinto quinto potere ci stia tutto, siamo un po' lunghi. Gli incarichi del Molise ve li leggo domani, perché pure lì, sapete, quando c'è un presidente della regione che è lì dal 1990 come Michele Iorio, mica illegalmente, sono i molisani che se lo votano, sono tutti cavoli dei molisani obiettivamente, è dal 1990 che Iorio è lì. Non, praticamente la Molise è l'unica regione comunista d'Europa ormai, perché la regione Molise controlla quasi tutte le partecipate. Domani ne parliamo. Intanto un invito ai consiglieri della regione Lombardia, tutti, non mi interessa, e anche insomma alla gestione del comune molisano, a capire in che situazione siamo, eh. Alcuni mi dicono e scrivono, beh, insomma, uno ha anche il diritto di portare fuori, come Rinaldin, 44 persone a cena, dove che darò la notizia, adesso lo recupero. E tra l'altro è una cifra, Giuseppe Angelo Giammario, 1125 euro per sfamare 44 persone. Ora, capisco anch'io che il prezzo non sia altissimo, sono 25, meno di 30 euro a testa. Però, dico, perché? Perché ha diritto? No, non ho capito. Cioè, uno ha diritto, se fa il consigliere regionale, di avere un rimborso spese sulle spese che sostiene, vere, e di avere anche una diaria e uno stipendio. Nessuno vuole che faccia la fame o che la politica la facciano solo i ricchi. Non mi sembra che questo abbia impedito che ciò capitasse nel paese. Ma comunque, ma perché deve poter, se vuole portare 44 persone fuori per motivi anche di campagna elettorale, se le paghi? Non ho capito il perché. Cioè, veramente, ma sono un po' gnucco oggi, quinto potere. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Dicevo, mentre c'è chi adesso deve giustificare certe spese, gli italiani oggi hanno avuto l'ultima giornata, l'ultima possibilità per pagare l'IMU. L'IMU, lo dico perché alcuni stanno già scrivendo inesattezze, è stata introdotta dal governo Berlusconi, decreto legge 23 del 14 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 67 del 23 marzo 2011. Cosa ha fatto Monti? Monti l'ha anticipata, perché doveva entrare in vigore nel 2014, e l'ha estesa alla prima casa, cosa non da poco, per quanto vi sia uno sconto del 200%. No, dico... 200 euro, scusate, 200 euro. Poi rispondo anche a un ascoltatore sulle spese, le dice, ma insomma, c'è uno che mi scrive e dice, ma io lavoro nel settore commerciale per una società di consulenza, sono un impiegato, ma se mi si rompe il telefono posso ricomprarlo con la carta di credito aziendale, ma ci mancherebbe, o aggiungere gli strumenti che mi servono. Io voglio capire però perché un consigliere debba spendere 2200 euro per una videocamera. Io voglio capire perché un consigliere deve avere una videocamera HD. Se mi dice che lui era deputato a riprendere le sedute, basta, tutto a posto, a parte che dovrebbe comprare il consiglio. Voglio capire questo. Vorrei capire anche perché uno dopo deve caricare la regione, nonostante la regione li avesse dati a tutti i consiglieri già, deve comprarsi un altro iPad 2 e un Mac, un Apple MacBook da 1000 euro. Se si rompe quello della regione, sarà la regione a cambiartelo, ma insomma, dai. È diverso, lei lavora nel settore privato, se tentasse di fare una cosa del genere, vorrei vedere l'ufficio del personale se la fa fare. Comunque, già ritrovati, a quanto arriverà questa IMU? Perché il governo incasserà forse 2-3 miliardi in più addirittura. Governo e comuni, buonasera. Sì, dovrebbe arrivare a intorno a quota 23 miliardi e qualcosa per quest'anno, che è una quota più alta del... C'è un problema? No. Che è una quota più alta... Che è una quota più alta, chiedo scusa, rispetto a quella prevista a dicembre a causa del calcolo d'aliquota standard, ed è una quota innalzata dalle scelte comunali sulle aliquote, perché i comuni hanno, come sappiamo, alzato in molti casi l'aliquota sulla seconda casa, sui negozi, sulle imprese, bla bla bla, e in parte per compensare i tagli ai trasferimenti, ai fondi di riequilibrio, eccetera. In parte, ecco, scusate, abbiamo sistemato il microfono, prego Gianni. In parte, dicevo, grazie per che questa divisione di gettito tra lo Stato e i comuni ha creato, insomma, più di una confusione sulle... Sì. sulle... Perché i comuni hanno avuto la loro possibilità di, esatto. di applicare le addizionali. C'è un po' di polemica oggi tra il ministro dell'economia Vittorio Grilli e l'ex ministro Brunetta, perché Grilli ha detto se le entrate dovessero essere superiori sarebbe salutare, e Brunetta si è arrabbiato su questo. Sì, Brunetta si è arrabbiato su questo. Il tema è che siamo in campagna elettorale. Ieri Berlusconi ha detto che, come dire, con un revival un po' di quello che è successo qualche anno fa, ha detto che in caso di vittoria abolirà l'IMU sulla prima casa. In realtà il problema qual è? La stanno correggendo proprio in questi giorni al Senato con gli emendamenti alla legge di stabilità per stabilire sostanzialmente che dall'anno prossimo tutta l'IMU sulle case, i negozi eccetera andrà ai comuni e l'IMU sulle imprese andrà allo Stato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'IMU diventa una compagna di strada, diciamo così, strutturale, una componente strutturale del sistema fiscale italiano. Si parlerà molto nei prossimi mesi di alleggerimenti, abolizioni, sì, bla bla bla, ma sarà roba da campagna elettorale, perché questo dimostra, diciamo così, che tutto il sistema si sta assestando intorno, certo, a questa presenza così importante. I comuni iniziano a contarci, no, anche il perché... gettito è alto perché è una patrimoniale, di fatto l'IMU è l'unica patrimoniale che c'è in questo paese. Sì, la notizia è appunto, il fatto è questo, la legge di stabilità dirà dal 2013 gettito su case, negozi e compagnia ai comuni in cambio dell'azzeramento dei trasferimenti statali. Questo vuol dire che l'IMU diventa, come dire, una roba... Cioè lo Stato non versa più ai comuni, i comuni lo prendono Stato quello... esce interamente dalla finanza, esatto, locale, diciamo così, e entrano interamente i cittadini e in particolar modo i proprietari di immobili. La cosa nasconde una brutta notizia ulteriore per le imprese, perché secondo, insomma, quelli che sono i testi che girano in queste ore, le imprese gireranno allo Stato il loro gettito ad aliquota standard, quindi 7,6 per mille, ma i comuni potranno aggiungere un altro 3 per mille, esatto. Il che vuol dire che le imprese non solo continueranno a dividere il gettito fra Stato e comuni come hanno fatto tutti tranne la prima casa quest'anno, ma come dire, sarà quasi certo, soprattutto nei comuni dove il gettito da immobili industriali è importante, sarà quasi certo che questa maggiorazione comunale verrà applicata anche l'anno prossimo. Quindi, insomma, sulle imprese anche la nuova IMU sarà molto pesante. Ricordiamo che rispetto all'ICI sugli immobili d'impresa il passaggio da ICI a IMU raddoppia spesso il carico fiscale, insomma. Però tutte queste modifiche fanno vedere che, insomma, sì, abolizione è un ottimo argomento da comizio o da intervista televisiva, sì, ma non ci sta. Io non penso sta. Che con questi chiari di luna lo Stato possa rinunciare a 23 miliardi sicuri, perché di questo stiamo parlando. Sì, ma anche l'IMU è da solo una manovra finanziaria, e anche di quelle corpose. Esatto, ma anche l'IMU sull'abitazione principale, che in sé a conti fatti varrà 4 miliardi, sì, miliardi e mezzo, perché anche qui ci sono stati, perché grosso arriva da imprese, seconde case, seconde case eccetera, però insomma 4 miliardi e mezzo. Se tu dici che l'IMU sulle case va ai comuni e che in cambio gli azzeri i trasferimenti statali, tu all'IMU non puoi più rinunciare in nessuna sua componente, hai, certo, deciso di non rinunciare in nessuna sua, oddio, componente. Potrebbe rinunciare il comune, che è così virtuoso che può chiedere un IMU molto bassa, è un caso, diciamo, no, diciamo più che rinunciare il trasferimento dell'IMU ai comuni è un fatto positivo, perché i comuni che hanno, come dire, una capacità fiscale maggiore o comunque una gestione più virtuosa potranno abbassare le aliquote anche sulle seconde case, anche sui, sì, negozi, cosa che in pratica quest'anno non si poteva fare perché metà del gettito andava allo Stato. Quindi quando tutto il gettito andrà ai comuni, loro potranno anche modulare, e devo dire che è un principio di federalismo fiscale, un piccolo principio, ma lo è, perché poi il comune più virtuoso dovrebbe tassare meno i cittadini, a meno che non voglia fare degli investimenti importanti comunque per la comunità, e il comune meno virtuoso avrà dei cittadini che pagano un IMU più alta. E soprattutto si fa ordine, nel senso ordine, che sì. Se tu quest'anno hai un IMU sul tuo negozio del 10,6 per 1000, vuol dire che paghi due volte e mezza lì l'anno scorso e ti arrabbi, il sindaco ha ottimi argomenti per dire ma è colpa dello Stato che si piglia esatto. Metà del gettito, bla bla bla. Dall'anno prossimo la chiarezza, diciamo, della destinazione. Ti arrabbi direttamente si col torna, sindaco. Si torna un po' alla normalità, cioè l'imposta locale va agli enti locali. Dopo il traffico, un'ultima domanda per te riguarda invece i dati della Guardia di Finanza sulla lotta all'evasione, lotta ancora un po' debole, mi sembra di poter dire, nonostante i vari strumenti annunciati. Ampi margini di miglioramento. Ampi margini di miglioramento. Restiamo in tema di fisco, ma in questo caso di evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha pubblicato i conti dei primi 11 mesi. Vabbè. 3.000 e adesso ti do la cifra esatta, 7.500 persone, scusatemi, come evasori totali, 175 verifiche sui capitali esporti all'estero, 13 miliardi trasferiti fuori dall'Italia, un po' poche le verifiche, ma soprattutto su 410.000 verifiche strumentali abbiamo scoperto che al nord e al centro quasi uno scontrino su tre non viene messo, al sud è quasi uno su due. E su 410.000 verifiche 135.000 con esito irregolare, una su tre. E vabbè, però su 41 miliardi che è il valore emerso dai controlli dell'evasione, noi sappiamo che il valore è molto molto più alto, si parla di 150 miliardi di imponibile, però sui 41 miliardi scoperti 2 miliardi e 3 la richiesta di sequestro di denaro, 900 milioni sono i capitali sequestrati. Qui torniamo sempre al punto che lo Stato o va o fa un accordo, se no non riesce poi a incassare quello che contesta. O sì. Incassa una piccola parte. Sì, diciamo che questo bilancio della Guardia di Finanza, queste operazioni sono ovviamente importanti. Tutti gli evasori totali o parziali che vengono pescati sono una buona notizia e sono operazioni ad ampio raggio. Con un'evasione, si ritorna sempre alla morale della favola, con un'evasione così endemica come quella che c'è in Italia, chiaramente ci deve essere un doppio effetto, cioè sapendo che sono stati fatti X centinaia di migliaia di controlli sugli scontrini e sapendo che sono state contestate parecchie decine di migliaia di irregolarità, ci dovrebbe essere un effetto indotto, perché con un'evasione così larga la sola verifica poi porta a casa l'1% di quello che si evade ogni anno. Sì. Dunque c'è chi dice ma scusatemi, se poi tutta l'IMU andrà ai comuni dell'anno prossimo perché lo Stato non dà più i soldi ai comuni, io dovrei pagare meno tasse allo Stato. No, amore non mio, è così. De mie vierge, le mezze vergini non esistono. Ma lei dove lo vede lo Stato italiano che l'anno prossimo dice vabbè, abbassiamo? No, quello che si potrebbe fare è un'operazione diversa, è una redistribuzione interna alla finanza pubblica e dire carichiamo più da una parte e eliminiamo, per esempio, riduciamo, scusatemi, il cuneo fiscale, quindi le tasse sui redditi da lavoro, quanto costa l'impresa e quanto paga il dipendente, ma meno tasse l'anno prossimo. Non so, se mi dice dove abita, veniamo tutti quanti a trovarla. Grazie a Gianni Trovati, la grazie borsa. Più 0,60% Milano, mentre Parigi meno 0,14%, Francoforte più 0,11%, Londra meno 0,16%. Ancora, penso per la terza o quarta seduta di fila, Milano è tra le migliori, lo spread di nuovo in calo anche oggi, c'è il caso Monte dei Paschi più 6%, ma lo tratteremo a sé perché oggi la Commissione Europea ha dato il via libera all'aiuto, alla ricapitalizzazione per il Monte dei Paschi, vale quasi 4 miliardi, 3 miliardi e 9, soldi nostri. Fiat più 3,36, Banca Popolare Emilia Romagna più 3,22, Banco Popolare più 2,60, Mediaset più 2,30 come Mediobanca e come A2A. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Fiat più 3,36 da un lato e Telecom Italia meno 1,13 dall'altro. Sì, Fiat oggi più 3,36, ma ricordiamo che la scorsa settimana, soprattutto gli ultimi giorni, i titoli erano andati male sulle indiscrezioni di stampa in base alle quali il Lingotto avrebbe allo studio un aumento di capitale da 1-2 miliardi per acquistare il 41% che ancora non detiene di Chrysler. Poi venerdì a mercati chiusi è arrivata la smentita direttamente da Sergio Marchionne, il numero uno del gruppo, che ha detto che appunto la società non ha assolutamente assolutamente bisogno di effettuare un'operazione sul capitale, o al limite potrebbe optare anche per strade alternative come la quotazione della controllata Magneti Marelli. E quindi queste parole hanno dato il là un recupero del titolo che oggi si è portato in avanti del 3,3%. Telecom Italia invece ha reagito male, ha fatto meno 1,1%. Venerdì scorso peraltro la società ha collocato un bond da 1 miliardo, ma soprattutto è stato interessante il rendimento, che è sceso sotto il 5% al 4,1%. Peraltro anche i giudizi degli analisti sono positivi, visto che abbassandosi il costo del finanziamento che deve pagare Telecom, questo migliora anche la valutazione dell'azienda. D'altra parte oggi i titoli appunto sono andati male, e del resto ci si interroga su quello che è il futuro della società, soprattutto su questa operazione di scorporo della rete di cui si parla da tanto tempo. Sulla rete devo dire che si parla tanto tempo, ma ancora mi sembra che ci siano poche decisioni. Pirelli, e qui abbiamo l'apertura di Canfin, che è la finanziaria di controllo, a altri soci, il titolo nel finale. Sì, il titolo in verità sul finale ha frenato dello 0,17%, la borsa ha mostrato nervi saldi, visto che l'operazione non coinvolge direttamente Pirelli, ma alla fine la controllante Canfin e soprattutto le società a monte, le società di Tronchetti Provera. Per inciso Canfin ha perso l'1,25%, sono entrati degli imprenditori, vale a dire la famiglia Rovati, che ha la Rotta, Pharma, un'azienda di farmacia, il manager imprenditore Sigeri Diaz. Un altro accordo che ricorda un po' quello fatto con i Malacalza, anche se ovviamente è diverso, coinvolge anche società diverse. Comunque la borsa ovviamente è attenta e tiene sott'occhio anche Pirelli, che oggi, ripeto, si è mossa poco, d'altra parte è sotto la lente degli investitori. Ancora tra i titoli di Fiat, Telecom e Pirelli abbiamo parlato, ripeto, di Monte Paschi parliamo tra pochissimo, perché abbiamo un apposito approfondimento. Migliori e peggiori in assoluto: Ion Renewables più 29, Industria e Innovazione più 6,38, Alcatel Lucent più 6,30, Antichi Pellettieri più 6,20, Monte Paschi più 6% e Meridiana più 5,40%. Fronte opposto: Unione Alberghi Italiani meno 20, Seat sul risparmio meno 8,26, Banca Ludesio meno 7,80, CDC Point meno 7, PMS meno 5%. Tra i titoli che cedono oggi anche Autogrill meno 0,66, Parmalat meno 0,60 e anche Saipem e Azimut. Tra chi si è mosso bene, oltre a quelli citati, A2A più 2,20, Ubibanca più 1,70, Buzzi più 1,70, Enel Green Power pure, Popolare di Milano più 1,40, come di Assorin, l'1,30 lo guadagna Finmeccanica, ma anche Exor ed Enel. Eleonora, per concludere, le banche le archiviamo sotto l'effetto spread in positivo? Guarda, sotto l'effetto spread, ma va notato che, a parte il Monte dei Paschi di cui parlerete dopo, ma alcune banche se ne sono mosse meglio, in particolare sono le popolari. L'effetto supervisione bancaria. Esatto, perché l'accordo europeo sull'unione bancaria, secondo gli esperti, potrebbe determinare un effetto di consolidamento proprio tra le popolari. Cioè diffusioni. Esatto, e acquisti. Allora si parla già di Banca Popolare di Milano, che potrebbe ad esempio andare in sposa con il Banco Popolare, infatti BPM ha fatto più 1,39, Banco Popolare più 2,6%, mentre la Popolare dell'Emilia Romagna più 3,2% potrebbe essere in odore di nozze con UBI più 1,7%. Ovviamente sono solo ipotesi per adesso. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e apriamo la seconda parte di Focus Economia con una buona notizia. Ricorderete che venerdì eravamo in Emilia, per la precisione a Mirandola, uno degli epicentri del terremoto. Abbiamo condotto da lì Focus Economia per la giornata che Radio 24 ha dedicato a 6 mesi del terremoto. Molti problemi emersi, i soldi ancora che attendono, però Oggi la Cassa Depositi e Prestiti e l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, hanno siglato una convenzione per rendere disponibili 6 miliardi di euro alle famiglie e alle imprese delle zone terremotate di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. E questa è una buona notizia. L'altra notizia invece di cui ci occupiamo adesso, come ricordavamo nel corso della borsa, si chiama Monte dei Paschi di Siena, non solo miglior titolo, anzi miglior titolo oggi in borsa, più 6,1% dopo che la Commissione Europea ha dato via libera temporaneo alla ricapitalizzazione del Monte dei Paschi per quasi 4 miliardi di euro. Quindi io poi non vorrei che l'ufficio stampa mi chiamasse, ma insomma il Monte dei Paschi viene tra virgolette temporaneamente salvato, quindi aiutato con soldi pubblici pari a quasi 4 miliardi di euro. 349-238-6666 per gli sms e poi Facebook. Eh sì, perché la più antica banca del mondo, tale è il Monte dei Paschi di Siena, tuttora operante, è nata nel 1472. Nell'ultimo anno ha perso il titolo il 20% del valore, capitalizza 2 miliardi e 300 milioni di euro e ha chiuso l'ultimo esercizio con 4 miliardi e 700 milioni di perdite, 4 miliardi e mezzo di svalutazioni, ha debiti per 31 miliardi e ha in pancia circa 32 miliardi di titoli pubblici italiani. Pesano varie scelte in questi anni, possiamo dire che forse tutto è iniziato in un periodo in cui nel maggio del 2008, prima che scoppiasse il crack Lehman, quindi quando Monte dei Paschi compra Banca Antonveneta e la paga 9 miliardi a fronte di un valore patrimoniale di 2 miliardi e 3 e con un guadagno per Santander che la controllava di oltre 2 miliardi di euro. Cesare Peruzzi del Sole 24 Ore, buonasera Cesare. Buonasera, ciao. Allora, prima domanda facile, di chi sono i soldi che aiutano Monte dei Paschi? Sono dello Stato, cioè di noi italiani. Sono tutti di te, ecco. A quali condizioni? No, perché sai. A quali condizioni sono stati dati? Perché l'approvazione arrivata oggi dalla Commissione Europea è subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione. Sì, diciamo che è doverosa la formula. Intanto voglio puntualizzare che si tratta di un ulteriore aiuto, perché Monte dei Paschi l'aveva già ricevuto nel 2009 nella misura di 1.900.000.000. All'epoca si chiamavano Tremonti Bond perché il ministro in carica era Tremonti. Adesso questi nuovi titoli che saranno emessi sono stati ribattezzati Monti Bond e diciamo che comprenderanno anche i vecchi Tremonti Bond che saranno chiusi, quindi saranno rimborsati interamente grazie a questo nuovo finanziamento pubblico che alla fine poi supererà i 4 miliardi, perché voglio ricordare che l'interesse che il Monte dei Paschi pagherà su questi 10%, titoli è circa il 10% e avrà facoltà di pagare questo interesse anche emettendo nuovi Monti Bond, quindi nuovi titoli di questa natura, solo per due esercizi, cioè quello appena in fase di chiusura, diciamo del 2012, e il prossimo, il 2013. Questo significa che l'impegno che la Banca di Siena si prende con l'Italia e con l'Europa è di tornare a produrre utili sufficienti per pagare gli interessi, in parte già col 2013, ma certamente in tutto almeno dal 2014. Cesare, chiariamo anche per un principio, è vero che quello che diamo al Monte dei Paschi è equivalente al gettito di IMU della prima casa. C'è una strana analogia tra i 3 miliardi e 9 e i 4 miliardi che lo Stato incasserà con la prima casa. Però non sono soldi a fondo perduto, cioè c'è un interesse che viene pagato, ma non è che vengono regalati e basta, ci mancherebbe. No, sono soldi prestati anche diciamo a un prezzo abbastanza caro, questo va riconosciuto. Un prezzo non troppo amichevole, ma come giusto che sia. in questi casi e con le dovute garanzie. Infatti il governo italiano, nell'emendamento con cui venerdì ha sostanzialmente dato il proprio via libera all'operazione, chiede che il Monte dei Paschi convochi un'assemblea per deliberare preventivamente un aumento di capitale nel caso in cui servisse emettere titoli Monte Paschi per ripagare queste obbligazioni, qualora diciamo le cose andassero talmente male che si dovesse prevedere veramente una nazionalizzazione anche formale della banca. Cioè che ce la compriamo noi. Senti Cesare, un'ultima domanda però. Dunque, con interessi al 10%, che non sono poco, hai ragione tu. Sì, poco o meno dovrebbe essere, un po' sotto il 10%. Ecco, e con la banca che dovrebbe tornare inutile, ma i soldi, se ho ben capito, serviranno a pagare gli interessi in primo luogo, giusto? I soldi, cioè questi l'eventuale, no, dico l'eventuale utile, sì? Servirà a pagare gli interessi, cioè quando è, come farà il Monte Paschi a ridare tutti questi soldi nel corso degli anni? Monte Paschi li darà cominciando a riprodurre utili secondo il piano industriale, sì, che chiede Bruxelles e che sarà sostanzialmente il piano industriale messo a punto dall'amministratore delegato e presentato il giugno scorso. Probabilmente con qualche accelerazione sarà un po' rivisto, perché come dicevo prima, già dal 2013-2014 la banca dovrà produrre utili. L'altra modalità è l'aumento di capitale che Siena ha già deliberato. Cioè emettere nuove azioni, certo. C'è un aumento di capitale da 1 miliardo è previsto nel 2014 per specificatamente restituire 1 miliardo allo Stato italiano. Quindi loro, diciamo la banca Monte Paschi prevede di restituire 1 miliardo con l'aumento di capitale, una parte con gli utili prodotti e di rimanere dal 2014-2015 con una parte ancora di debito da restituire. Questo grosso modo è lo schema. E ti ho detto l'ultima domanda, in realtà ho mentito, perché molti ascoltatori giustamente dicono, ma insomma, come si è arrivati a una situazione così difficile, non voglio usare altri aggettivi, la gestione a tempera di Musseri, che adesso non è più chiaramente il numero uno del Monte dei Paschi, però il numero uno dell'ABI, delle banche italiane, ma dico, come si è arrivata al di là dell'acquisizione di Antonveneta, pagata un po' cara per essere buoni? Beh, su questa vicenda l'acquisizione di Antonveneta non incide molto, incide soprattutto una scelta politica della gestione passata del Monte dei Paschi di acquistare titoli di Stato italiano. I BTP sono oggi circa 24 miliardi in portafoglio al Monte e siccome questi titoli subiscono gli andamenti del mercato, quando un anno fa l'autorità europea valutò i vari patrimoni delle banche per stabilirne la congruità rispetto agli attivi, per Siena c'era un gap, una differenza negativa che era di oltre 3 miliardi, di 3 miliardi e 2. Questo perché l'EBA ha deciso di valutare a valore del momento i titoli di Stato. Già oggi valgono un pochino di più quelli italiani, perché lo spread si è ridotto. E quindi se un domani, come nel piano industriale del Monte Paschi è scritto, lo spread tornasse intorno ai 200-250, probabilmente buona parte di questi problemi di patrimonializzazione sarebbero risolti automaticamente. Questa almeno è la speranza dei senesi. È l'auspicio dei senesi e dei manager. E aggiungo non solo dei senesi, che una parte dei soldi sono anche nostri in questo momento. No, appunto, l'auspicio di tutti, cioè che Monte dei Paschi riesca a restituire nei tempi previsti e tutti i soldi che gli abbiamo temporaneamente prestato. Sì, perché Sebastiano, per chiudere il concetto, se oggi per avventura lo spread andasse a 200 punti domattina, non ci sarebbe più quella necessità di un ulteriore patrimonio a garanzia degli attivi del Monte, e quindi il Monte potrebbe prendere il prestito pubblico e restituirlo. The establishment of the SSM can be expected to be a key turning point in the resolution of our current challenges. The SSM will contribute to restoring confidence in the banking sector across the euro area. It will help to revive interbank lending and cross-border credit flows with tangible effects for the real economy. The SSM will go a long way towards breaking the vicious feedback loops between sovereigns and banks. E questo è il giudizio in integrale di Mario Draghi sulla supervisione bancaria come unico punto di svolta, la supervisione bancaria unica come punto di svolta nella soluzione delle nostre sfide attuali, ha detto Draghi, e contribuirà a restaurare la fiducia nel settore bancario dell'area euro. Così Draghi su quanto deciso la settimana scorsa, ossia che vi sarà dal 2014 una banca centrale europea che potrà anche supervisionerà le principali banche dell'area euro, che da sole valgono l'80% degli asset del valore bancario. Ma Draghi è intervenuto anche sull'economia, ha detto che l'economia è ancora debole, resterà ancora debole nel 2013. This year has not been an easy one. Quello che si sta chiudendo non è stato un anno facile. È stato un anno in cui i legami tra i paesi dell'area euro sono stati messi alla prova. Tuttavia è stato anche un anno in cui è stata formulata una visione di lungo termine per l'Unione Monetaria e un anno in cui questa visione ha iniziato a tradursi in realtà. Perciò chiudiamo il 2012 con un tono positivo, con il rilancio della visione a lungo termine, con i passi in avanti compiuti dai singoli stati e dalle istituzioni europee verso l'unione economica e monetaria e recentemente con l'accordo unanime all'Ecofin circa il meccanismo unico di sorveglianza bancaria. Le prospettive economiche restano impegnative. Ci attendiamo che la debolezza dell'economia dell'area euro prosegua anche nel 2013, con una ripresa molto graduale nella seconda metà del prossimo anno. With a very gradual recovery in the second half of the year. Lo dico? Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, ma al di là di questo, Draghi è intervenuto anche sul dato di oggi sull'export. Il risanamento in Italia è visibile, l'export italiano è cresciuto. Ma non solo in Italia, in Spagna, Irlanda e Portogallo, paesi che stanno anche guadagnando sui costi dell'unità di lavoro. È incoraggiante constatare che ora la correzione degli squilibri è chiaramente in corso. Per esempio, le esportazioni di beni e servizi in Spagna sono aumentate in volume del 27% dal 2009. Del 14% in Irlanda, del 22% in Portogallo e del 21% in Italia. Questi quattro paesi stanno anche assistendo a miglioramenti nei costi unitari del lavoro. Le riforme economiche stanno procedendo anche se nel breve termine. I costi per i singoli cittadini possono essere considerevoli, ma le riforme sono il cammino giusto da percorrere e i governi dovrebbero perseverare su questa strada. Così appunto Mario Draghi, mentre scrive un ascoltatore: beh, il Monte dei Paschi ha usato i Tremonti Bond, adesso i Monti Bond, Tremonti più Monti Bond fanno quattro Monti Bond, mamma mia. Si abbassa la temperatura qua dentro. Il dato sull'export nei primi 10 mesi, più 4,5% rispetto ai primi 10 mesi del 2011, grazie soprattutto e esclusivamente alle vendite delle nostre imprese fuori dall'Europa. L'Europa è ferma come vendite, più 0,2%, fuori dall'Europa abbiamo fatto invece un più 10% nelle esportazioni. L'attivo di bilancio a questo punto è di 6,5 miliardi, la differenza tra quanto abbiamo esportato e importato è il dato migliore dal 2002, dai primi 10 mesi del 2002, quindi 12 anni. E anche nel solo mese di ottobre c'era un attivo della bilancia commerciale di 2,5 miliardi. Dottor Fedele De Novellis, economista del Centro REF Ricerche, buonasera. Buonasera. Allora, guardo ottobre intanto, il nostro export in Germania rispetto a un anno prima più 7,8%, più 5,5% in Francia, meno 3,9% in Spagna, più 19% in Gran Bretagna, più 19% negli Stati Uniti, più 40% nei paesi produttori di petrolio, più 31% in Giappone, più 2% in Cina, meno 10% in India. Sui settori alimentari più 15%, chimica più 14%, autoveicoli più 8%, tessile, abbigliamento più 8%, elettronica meno 2%. De Novellis, mi sembra di poter dire due cose ormai, visto che l'anno è praticamente finito. Meno male che l'export c'è, e più che la Cina o l'India, ci ha dato una grossa mano l'area dollaro e i paesi produttori di petrolio. Diciamo che abbiamo avuto un forte miglioramento del saldo commerciale, che dipende anche da un miglioramento delle esportazioni. È vero, abbiamo anche importato meno. Soprattutto dal crollo delle importazioni, come è normale in una recessione. Però naturalmente non parliamo delle cose che vanno male, perché diciamo che c'è qualcosa che va bene. Quindi io sottolineo un punto che a mio avviso è un primo segnale di recupero. Sostanzialmente la dinamica delle esportazioni italiane da circa un anno e mezzo è uguale a quella della Germania, cioè sostanzialmente quel trend di perdita di quote di mercato che aveva caratterizzato l'Italia, ma anche altri paesi della periferia europea, e che molti tendono come una delle ragioni strutturali della crisi dell'euro, cioè ciò che ci ha portati presumibilmente verso le difficoltà attuali, beh, si sta sanando. Ricordiamo però, Draghi lo diceva poco fa, magari in termini forse un po' troppo trionfalistici, abbiamo una variazione della competitività infraarea, questa è una cosa buona perché vuol dire che sostanzialmente certi meccanismi di riequilibrio all'interno dell'area euro funzionano, però quello che si vede è che questo riequilibrio lavora soprattutto per apertura dei differenziali salariali, quindi sostanzialmente spieghiamola tutta questa, ovviamente i paesi in crisi, pensiamo alla Grecia che è un caso clamoroso, hanno delle retribuzioni che scendono rispetto alla Germania. Sì, allora ci sono tanti modi per aumentare la produttività di un paese, competitività. E la competitività in questo caso, mi scusi, un primo punto è quello di dire: se il costo del lavoro cresce meno rispetto alla Germania, allora ecco che io guadagno competitività rispetto alla Germania. Il caso greco è quello più clamoroso. Sì, De Novellis, mi faccio dire una cosa però. Noi siamo obbligati a fare così, perché c'è un altro modo che per anni abbiamo avuto, svalutare, no? Con la lira. E tu, se svaluti, chiaramente i tuoi prodotti costano meno sui mercati esteri. Quello che fece l'Argentina, sostanzialmente. Noi non lo possiamo fare perché abbiamo l'euro, e l'euro non si può svalutare, diciamo. Non ce lo fanno svalutare nei confronti del dollaro né gli americani né i tedeschi, e quindi alla Grecia, e non solo alla Grecia, anche al Portogallo, è stato detto: se tu vuoi essere più competitiva devi pagare meno i tuoi dipendenti, perché non possiamo toccare l'euro, l'euro rimane sempre 1,31-1,30 sul dollaro. La differenza tra svalutare e invece ridurre gli stipendi la capisce anche un bambino: se svaluti, tutto sommato il tuo potere d'acquisto, tranne che per i beni importati, resta più o meno simile. Se tagli gli stipendi, il tuo potere d'acquisto crolla e basta. Mi dica una cosa, torniamo invece però al nostro export, De Novellis: più petrolio e area dollaro che Cina e India? Beh, sicuramente i paesi produttori di petrolio sono quelli che tirano, ma ricordiamo, sono anche quelli che hanno schiacciato i saldi commerciali globali nell'ultima fase, perché i paesi produttori hanno guadagnato ragioni di scambio dopo il 2010-2011 con i prezzi alti, quindi ci sottraggono potere d'acquisto perché il prezzo del petrolio conta molto, è elevato, però d'altra parte importano, e quindi noi gli restituiamo questa sottrazione di potere d'acquisto perché esportiamo verso di loro. Per cui la cosa interessante è che a livello internazionale noi abbiamo due aree che migliorano molto il saldo: uno è l'area euro per le questioni sopra discusse, un'altra sono i produttori di petrolio. I saldi di queste aree migliorano e schiacciano i saldi delle altre aree, quindi si iniziano a ridursi tutti i surplus asiatici, e soprattutto ha ripreso a peggiorare di nuovo il deficit degli Stati Uniti, quello del Regno Unito, cioè quei paesi che da una parte prendono i prezzi sfavorevoli dai paesi del Medio Oriente, dai produttori di greggio, e dall'altra parte comunque c'è un effetto diffusivo della caduta della domanda europea, perché i paesi della periferia stanno migliorando molto. È interessante, secondo me, segnalare che i paesi della periferia, che avevano, cumulandoli tutti insieme, un deficit di 135 miliardi di euro nel 2008, stanno arrivando tutti e cinque insieme quasi al pareggio. Non ce la faranno nel 2012, questo avverrà inizio 2013. La cosa, secondo me, altrettanto interessante è che questo swing del saldo commerciale dei paesi periferici, non è andato a scapito della Germania. Per cui se noi miglioriamo il saldo e la Germania non peggiora il suo, quello che ne consegue è che a livello di area noi come area euro vediamo il saldo complessivo dell'area euro che esplode. Sì, certo. Quindi adesso quest'anno chiudiamo già con un saldo significativo intorno quasi intorno agli 80-90 miliardi di euro e quindi sostanzialmente stiamo diventando noi, se continuiamo di questo passo, a essere da un canto l'area in surplus e per certi versi anche un po' il drag della crescita. Sì, diciamola tutta che sul fronte esportazioni dei novelli se l'Italia non ha niente da invidiare alla Germania come trend, come dati, e quindi su questo vuol dire che le nostre imprese su quei mercati vanno bene. Ripeto, non sto parlando solo delle grandi, mi faccia chiudere con una nota dolente, ma chissà come andrebbero se avessero dietro anche un sistema paese che le aiuta dal punto di vista commerciale con le banche e non solo con gli uffici di rappresentanza ma con linee di credito, da un punto di vista nazionale con un ICI che non si capisce più chi fine abbia fatto l'ICI, che dà informazioni e quant'altro, e poi anche con un po' di agevolazioni fiscali quando reinvestono gli utili sull'impresa stessa. Ma tant'è, questo sarebbe un altro paese. Per ora grazie a Fedele De Novellis, economista del Centro di Ricerche REF. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.